Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Luca Tremolada, 16.32, Nova Lab 24, con Sandro Mangiaterra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo quindi, come tutti i mercoledì, di aziende innovative, di innovazione, di case industriali italiani, e magari anche non in futuro, ma per ora italiani. Ma ora le news. In attesa di scoprire come sarà il tablet della Apple, una nuova applicazione è da qualche giorno disponibile sull'Apple Store. Si tratta della versione mobile per iPhone e iPod Touch de Il Devoto Oli, storico vocabolario d'italiano d'autore. Un nuovo modo per avere sempre con sé la versione integrale del vocabolario, o meglio, un pezzo di storia per gli studenti di tutte le età. Continua, anche se sotto traccia, il braccio di ferro Google e Cina. Questa volta però a far discutere è Baidu, il principale motore di ricerca su internet cinese, che ha annunciato oggi di aver sporto denuncia negli Stati Uniti contro il suo server per negligenza, dopo un attacco informatico che ha reso il servizio inaccessibile per diverse ore la scorsa settimana. Il 12 gennaio il sito cinese sarebbe stato piratato da un gruppo che si presentava come il Cyber Esercito Iraniano, sostenitore dell'autorità di Teheran. Poche settimane prima, a lamentarsi di un attacco informatico, era stato proprio il motore di ricerca Google. È in corso una mobilitazione sul web e su Facebook per salvare il telescopio più grande d'Europa, il Sardinia Radio Telescope di San Basilio, Cagliari. Il centro rischia di non poter entrare in funzione per il taglio dei fondi governativi. Nonostante il boom di Twitter, sarà sempre la televisione a dominare il mondo dell'intrattenimento nel 2010, mostrando di avere ancora più appeal rispetto ai quotidiani e alla loro reincarnazione digitale, gli e-reader, che potrebbero vivere invece un anno difficile. Lo si legge nel rapporto Deloitte 2010 TMT Predictions. Secondo la pubblicazione, la TV e il suo palinsesto fisso rimarranno un elemento centrale dell'intrattenimento popolare, nonostante la crescente volontà da parte del pubblico di guardare i programmi preferiti quando vuole. Insomma, ma nonostante tutto noi continuiamo a preferire i libri, la carta, i giornali. Dai, facciamo un po' retro, facciamo un po' quelli vecchiotti. Anche perché mi pare di capire che nel mondo dell'high tech, insomma, ci sono problemi, ogni giorno c'è un problema. Sì, c'è, no? Una roba nuova. Tra l'altro tu sei, c'è una roba nuova da una parte, ma un problema dall'altra, certo. No? Di regolamentazioni. Si chiude una porta, si apre un portone, anche in campo informatico. Questo è un detto che mi sono inventato adesso. Però ma saggezza vecchia saggezza popolare. Vecchia saggezza. Tu sei uno di quelli che lava la macchina, sì, la domenica ti ci vedo, no, proprio. Io no, però no. Mio padre sì. Mio tutte padre le domeniche. Il sabato pomeriggio. Se qualche volta la domenica mattina scendeva, il classico, no? Il vecchio rito italiano, no? Scendeva in cortile, tirava fuori la macchina, prendeva la pompa, e poi la passava, lucidava. Sì, è sì, un rito. Un vecchio rito italiano. E un rito che non è un rito, noi allora siamo andati proprio a pescare chi? Sergio Vinci, direttore generale dell'Accecato di Montecchio Maggiore in provincia di Varese. Di Vicenza. Di Vicenza, ecco, vedi, che si occupa di autolavaggio. Esatto, che ha purtroppo ha interrotto quel rito. Che ha interrotto quel rito perché è colpevole di aver interrotto automatizzato, quel rito. Innovato, scopriremo tutti. Prima sentiamo chi è Vinci. Ha iniziato a occuparsi di tecnologie e logistica alla Zanussi. È passato attraverso colossi come General Electric e medie imprese come Hydra. Alla fine è tornato al primo amore, gli impianti industriali super specialistici. Sergio Vinci, 47 anni, ingegnere meccanico, è il direttore generale dell'Accecato di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. 53 milioni di fatturato, 300 dipendenti, azienda leader nella produzione di impianti di lavaggio per qualsiasi tipo di veicolo, dalle automobili ai camion ai treni. Dal marzo 2008, quando è entrato nel gruppo, l'Accecato ha ulteriormente accentuato il proprio impegno nella ricerca e nell'innovazione, acquisendo decine di brevetti internazionali. Insomma, Vinci, le pistole, degli autolavaggi, i rulli ruotanti, tutta roba vostra. Ma sicuramente siamo quelli che stanno cercando di fare in modo che gli italiani lavino meglio le loro auto con maggiore rispetto dell'ambiente e soprattutto conservando e preservando meglio le carrozzerie delle loro mezzi. Però è vero che c'è stato un boom negli ultimi 20 anni, no? Di questi impianti, che anche i self-service, no? Adesso il boom è stato proprio dalla canna all'impianto di autolavaggio a gettone, no? Perfetto, il boom è stato proprio legato al fatto di rendere accessibile una tecnologia come poteva essere quella del lavaggio automatico tramite la logica del self-service ad un pubblico molto più ampio. Un pubblico che, fra le altre cose, era proprio abituato al rito del lavaggio al sabato pomeriggio. Quindi avete ucciso una poesia sostanzialmente, perché era una pratica artigianale. Cioè io ogni tanto, poi tra l'altro non in città ma fuori città, se ha un minimo di giardino. Si andava in posti precisi a lavare, c'erano decine di auto. Ed erano strumenti di socializzazione, cioè in un lavaggio automatico, ma com'è che si socializza? Cioè entri dentro, poi entra la macchina sporca ed esce pulita. Noi stiamo pensando che riportare l'ambiente del lavaggio in una situazione in cui ci sia un concetto di arredo urbano, quindi di ricreare anche una socialità attorno a un ambiente che invece ha fortissimi connotati ormai tecnologici, sia un passo importante. Questo proprio quindi ci state pensando anche voi. Ma abbiamo presentato proprio l'anno scorso una linea di prodotto che si ispira a delle forme nuove, molto legate a riprendere forme della natura con utilizzo di materiali cosiddetto ecocompatibili. Anche quindi voi siete caduti nel tranello dell'ecocompatibile, perché ormai è un... Noi poi nella trasmissione è più che una moda, è una realtà. Le abbiamo viste tutte, abbiamo visto i negozi ecocompatibili, i supermercati ecocompatibili, i libri. Tra l'altro gli sms, appena si dice libri, Danilo Giordano subito: viva i libri, viva la carta. Ormai cioè, ci vedono anche come degli oggetti di tecnologia anti-vecchiume. Non è vero, ci piace anche a noi, ci piace anche distinguere. Comunque, chiudiamo la parentesi, ma la cosa che ci stanno chiedendo è: dove sta l'innovazione in un autolavaggio? Cioè nella scelta dei materiali, nella spazzola, nel... Aspettiamo, perché abbiamo una breve scheda che ci introduce il tema. La Ceccato è un'azienda con oltre mezzo secolo di vita. Nata per realizzare bruciatori applicati nei forni per la cottura del pane, il suo nome comincia a essere conosciuto nel mondo negli anni 50 grazie alla produzione di motociclette che realizzano 6 record mondiali di velocità ed endurance. Nei primi anni 60 la decisione di concentrarsi sugli impianti di lavaggio, allora destinati ai veicoli industriali. Nell'ultimo decennio il settore ha registrato una fortissima svolta sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, soprattutto sul versante dell'antinquinamento e dello smaltimento delle acque reflue. Significativa in questo senso la commessa acquisita dalla Ceccato a San Paolo del Brasile per la pulizia delle vetture della metropolitana. L'azienda vicentina ha realizzato una pista di 40 metri che consente il lavaggio di convogli lunghi 130 metri in 4 minuti. In aggiunta, l'impianto è dotato di un depuratore dedicato al recupero delle acque, in grado di trattare 6.000 litri all'ora. Allora, Vinci, ci spieghi. Una volta il massimo che chiedeva all'automobilista era che non gli rigassero la macchina. Adesso che cosa chiede e perché? Ci spieghi questa svolta anche, no? Questa vera innovazione sia nelle aspettative della clientela sia dal punto di vista dell'offerta, no? Dell'impianto. Partiamo da un concetto che è quello che un impianto di lavaggio innanzitutto svolge una funzione fondamentale, che è quella di rendere l'operazione del lavaggio che crea inquinamento in un'area, rende possibile questo in un'area dove invece l'inquinamento si riesce a controllare. Questo significa che normalmente quando si lava con la canna un'auto nel giardino della propria casa, tutto si fa in modo tutto il sudicio, che tutto lo metalli sporco, pesanti, ferro, zinco, piombo, piuttosto che idrocarburi, si depositino sul suolo con tassi di inquinamento che sono oltremodo superiori a quelli ammessi da qualsiasi regime legale. Voi siete più eco-friendly, cioè voi siete più puliti, cioè insomma non buttate via l'acqua sporca. Noi non buttiamo via l'acqua sporca, la ricicliamo in modo tale da rendere anche eticamente compatibile un business come quello dei lavaggi automatici in paesi dove l'acqua diventa un bene oltremodo prezioso. Ecco, però questo al consumatore che magari non è molto attento dice: vabbè, ma a me in fondo... cioè io sono uno, anzi c'ho un SUV, voglio inquinare, cioè diciamo dell'acqua reflua, così interessa poco, interessa il sistema. Nova Lab è sicuramente pro queste iniziative, però al consumatore finale... Al consumatore finale interessa sicuramente, al di là di avere o meno una coscienza ecologica, ma questo è un altro elemento, di avere un impianto che assicuri la cura dell'auto, della propria autovettura, e permetta nel tempo di preservarne un valore, quindi senza rovinare le carrozzerie. Questo significa, dal nostro punto di vista, sviluppare sistemi sempre più sofisticati che innanzitutto permettano un approccio adeguato alla tipologia di sporco che in quel momento la macchina ha depositato. Questo è già un fattore che è molto simile a quello che normalmente siamo abituati a pensare quando pensiamo alle lavatrici. Perfetto. I programmi... Quindi il lavaggio personalizzato. Assolutamente. Cioè il fango... sono andato, c'ho la pioggia, la sabbia, sono andato così. Sono assolutamente possibilità di lavaggio differenziato che nell'ambito delle nostre macchine significa la possibilità di offrire un numero significativo di programmi diversi proprio per rendere possibile una gestione il più possibile idonea al tipo di sporco che è da togliere. Secondo punto, il fatto che le forme, le sagome che ormai caratterizzano le macchine dei nostri clienti implicano sistemi di controllo del movimento che sono sempre più sofisticati e sempre più simili a quelli di una vera e propria macchina utensile. C'è un ascoltatore che protesta, dice: le macchine per fare gli spazzoloni le facciamo noi, Borghi Macchine. Ha scritto al 349-238-6666, perché esistono anche, insomma, Borghi Macchine fa gli spazzoloni. Ci sarà anche innovazione su quel fronte? Beh, sicuramente l'innovazione sugli spazzoloni è un altro elemento a cui noi badiamo. Collaboriamo con dei produttori di spazzole proprio per identificare quelle che possono essere le migliori soluzioni. Il materiale preferito dall'autovettura? Il materiale preferito dall'autovettura è quello che è un materiale morbido, viene chiamato car light nel nostro caso, può assumere nomi diversi a seconda un po' del produttore. Ma che in concreto una base di che si EVA, tratta? Quindi una materassino di base EVA che viene tagliato e formulato in modo tale da creare delle vere e proprie dita che massaggiano la carrozzeria del mondo. Scusi, Vinci, ma il vecchio, anche lì, sacro panno di camoscio? Beh, quello è la finitura che ancora qualcuno di noi si aspetta di avere da chi gli gestisce il lavaggio per poter utilizzare, per migliorare l'asciugatura. Ma nel nostro caso l'asciugatura deve essere qualche cosa fatta il più possibile senza un contatto con la carrozzeria. Esatto, ma adesso l'asciugatura ce la spiega subito dopo, perché diamo la linea al traffico, sembra fatto ad hoc. Nova Lab 24. Luca Tremolada, 16:47. Eravamo passati alla pulitura, all'asciugatura, al come panno di camoscio. Al panno di camoscio. Non c'è più il panno di camoscio. Il panno di camoscio che viene sostituito da sofisticate attività di ricerca che riguardano come rimuovere delle gocce d'acqua dalla carrozzeria dell'auto. Cos'è? Fon, no? L'aria? È no. Una massa d'aria che viene soffiata con una velocità di circa 70 km all'ora, sfruttando l'effetto vela che la goccia d'acqua deve avere sulla carrozzeria dell'auto. Dunque, il contrappasso a quello che stai dicendo ce lo racconta Federico da Verona in un SMS che ci dice che in Australia è stato in un car wash coffee, cioè un luogo dove si prende il cappuccino, si dà un'occhiata alla prima pagina dei giornali e intanto 8 persone, nulla di automatico, stanno lì a pulire la macchina. Sono soluzioni che sono presenti in molti mercati, prima di tutto quello americano. Sono soluzioni che se accoppiate con quello che può essere comunque la qualità di un lavaggio automatico, permettono di far sentire il cliente oltremodo anche vezzeggiato e servito nel migliore modo. Una cosa al volo: gli impianti di lavaggio a vapore William li conosce? No, c'è un ascoltatore di Ascoli Piceno che ci dice parla di impianti di lavaggio a vapore. William è il nome del personaggio, non sono William. Fa niente, andiamo avanti. Impianti, Okay. Noi stiamo utilizzando e stiamo sperimentando anche altre tecnologie al di là dell'acqua, magari per la pulizia degli interni, ad esempio okay. Il ghiaccio secco. Ah, ecco. È una tecnologia oltremodo innovativa per quanto riguarda l'ambito del lavaggio delle auto e stiamo sviluppando delle attività proprio di ricerca in questo. Quindi, insomma, sembra facile dire vado a lavare la macchina, in realtà c'è dietro una ricerca. Voi avete un centro di ricerca con una ventina di ingegneri, giusto? Noi abbiamo un centro di ricerca con una ventina di ingegneri, destiniamo quasi il 5% del nostro fatturato ad attività di ricerca. E avete una pista di 40 metri. Cosa ci racconti serve? Questa cosa qua del San Paolo del Brasile, perché mi pare che sia un impianto molto personalizzato. Assolutamente. Questo. Voler offrire una soluzione idonea per il lavaggio di una metropolitana piuttosto che un treno ad alta velocità significa sviluppare delle soluzioni oltremodo customizzate, perché le esigenze possono essere molto diverse. Quindi ad hoc sul cliente. Vengono in questo caso disegnate ad hoc sul cliente, in questo caso. Allora, ci spieghi un attimo, vediamo se un secondo, perché abbiamo Soldavini che è arrivato in ritardo, abbiamo 2 minuti, quindi tu hai 50 secondi per dire che cosa succederà domani su Nova. Domani su Nova, beh, allora a questo punto lascio ai lettori comprarlo e vedere. Metto lì solo la domanda che ci poniamo. Internet, come ha cambiato il nostro modo di pensare, di agire e in prospettiva, come facciamo noi un po' guardando un po' più lontano, anche se sta cambiando un po' l'evoluzione dell'uomo, come se fosse come è stata la scrittura, la stampa, così, se sta cambiando anche proprio il cervello, la fisiologia dell'uomo. Il titolo è l'evoluzione dell'infotipo, che noi apposta non spieghiamo, cioè sarebbe facile dire adesso ci spiegate cos'è l'infotipo, no. No, non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo. Abbiamo fatto questa cosa apposta per non dover spiegare in radio che cos'è l'infotipo. Lo leggete domani su Nova 24. Un altro argomento che ho detto subito. Abbiamo ancora un minutino. Un altro argomento, no. I liquidi non newtoniani. Ecco, già questo c'entrava qualcosa con la trasmissione. Però ti dico, cioè, magari può sembrare una cosa complicata. Ti posso dire che c'è un video che gira per la rete di ragazzi che camminano su una piscina di un liquido non newtoniano. E tu non sai invece che c'è una pista di 40 metri che viene utilizzata dall'acceccato per pulire i treni, fondamentalmente. Certo, i vagoni della metropolitana potresti applicare anche i liquidi non newtoniani. Potrebbe essere una tecnologia vincente per pulire le astronavi. Che ne domani so? Dopo aver letto l'articolo le saprò dire qualcosa. Però di più. Non vuole, secondo me, cioè si è visto che è scettico. Ma ultimissima cosa, Vinci, il treno passa e si lava? In questo caso il treno passa e si lava. Okay. In 4 minuti si rilava un convoglio mentre di 130 va. Metri. 4 minuti, 4 minuti 130 è un metri po' come, di treno. Come l'autolavaggio. Si porta esattamente lì il treno un impianto di autolavaggio dimensionato per un treno e quindi con tutte le customizzazioni e la sofisticazione necessarie. È finita qui, ringrazio i nostri ospiti, Sandro Mangiaterra, Pirandello Soldavini, Sergio Vinti, ci sentiamo domani alle 16:30, mi raccomando. Grazie.